Sabato notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. C'è un sindaco, l'attività amministrativa si occupa il sindaco, al pieno sostegno del Partito Democratico. Non abbiamo, ci siamo limitati a parlare del Partito Democratico e di quello che faremo domani. Quindi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ricominciamo a ritrovarci insieme tutte le sere da oggi con Matteo Orfini, presidente del PD, che avete appena sentito, che ha detto che niente, Marino ha la massima fiducia del Partito Democratico dopo questa bufera dell'inchiesta della Procura di Roma su Mafia Capitale. Dice, effettivamente Marino era estraneo a tutto questo, quindi si temeva nel tardo pomeriggio che ci sarebbe stata la decisione per smantellare il Consiglio Comunale, invece a quanto pare è rimasto in piedi. Questa è una delle notizie principali naturalmente di oggi, e poi andremo anche su una serie di rapporti, per esempio quello sulla tortura da parte della CIA negli Stati Uniti, dei prigionieri dopo l'11 settembre. Ci sono anche altri rapporti molto interessanti, in più le novità su questo caso che ha fatto tanto discutere, tanto che ha attirato naturalmente tanta attenzione, quello dell'omicidio del piccolo Loris a Santa Croce Camerina vicino Ragusa, con gli ultimissimi sviluppi e con il cercare anche di capire con un'esperta che cosa può aver portato a un delitto del genere, che ogni tanto succede, questo ha delle particolarità rispetto ad altri. Comunque ci saremo tra poco, man mano, nella trasmissione, quindi seguite fino alle 22, stiamo insieme qui a Effetto Notte. Per i vostri messaggi, vi ricordo sempre, c'è, se va a dire, la pagina Facebook di Effetto Notte, quella è sempre lì, se volete aderire naturalmente senza indugio oltre a fare i vostri commenti potete fare anche via sms al 349 238 6666. Incomincio come sempre però con raccontarvi la giornata. Giustizia, la linea dura di Renzi sulla corruzione, i corrotti pagheranno, dice, nuove misure nel Consiglio dei Ministri, sarà allungata la prescrizione. L'omicidio di Loris, la madre trasferita in carcere, nuovamente interrogata per 5 ore, nega tutto. Grecia, verso il voto anticipato, la borsa di Atene a meno 12,78% e affossa l'Europa. Stati Uniti, pubblicato il dossier che svela le torture della CIA, metodi brutali ed inganni. Obama commenta, se sono stati traditi i nostri valori, non deve accadere mai più. Femminicidi, nel pesarese uccide la moglie di 46 anni con più colpi alla testa e tenta il suicidio, e 3 giorni di lutto a Numana, sempre nelle Marche, per l'uomo che ha sparato a moglie e figlio di 5 anni. E poi epatite C, in arrivo un miliardo e mezzo per il superfarmaco che la sconfiggerà, e costa questa malattia 520 milioni all'anno al sistema sanitario nazionale. Rapporto OCSE sulle disuguaglianze, in Italia i più poveri guadagnano un decimo dei più ricchi, sono appunto stime dell'organismo dell'OCSE. Muore anche il fratello di Mango, forse un altro infarto durante la veglia funebre. Poi per il calcio, in Champions ci sono Juve, Atletico Madrid. Partiamo quindi dall'inchiesta su Mafia Capitale. Dopo l'esplosione di questa inchiesta che ha fatto emergere incredibili intrecci tra politica, imprenditoria e criminalità a Roma, il Presidente del Consiglio Renzi ha annunciato giovedì mattina alle 8 porteremo in Consiglio dei Ministri 4 piccole grandi modifiche al codice penale in materia di corruzione. Si alza la pena minima della corruzione da 4 a 6 anni, per cui se hai rubato puoi patteggiare, ma un po' di carcere te lo fai, dice Renzi. Sentiamolo. Saranno i giudici a capire se quello è un reato mafioso o più banalmente si fa per dire un atto di corruzione. Io però ho da prendere un impegno con i cittadini, che è quello di fare di tutto perché finalmente in Italia chi ruba paghi fino all'ultimo centesimo, paghi fino all'ultimo giorno. Ma sentiamo le ultime sull'inchiesta, dicevamo, della Procura di Roma e sulla giunta del Comune della Capitale, da Elisabetta Fiorito. Si allontana l'ipotesi di scioglimento dell'amministrazione capitolina. Malfano ha delegato Pecoraro ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Roma. Il prefetto vaglierà gli atti amministrativi del Campidoglio per verificare se ci sono i presupposti per chiedere il commissariamento del Comune. Intanto, per quanto riguarda il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha fermato una gara di 60 milioni di euro per l'acquisto di un centro unico di prenotazione della ASL, mentre proseguono i controlli sulle gare della Regione. E di poco fa anche il video del Premier Matteo Renzi, che propone di alzare il reato di corruzione da 4 a 6 anni, allungare il periodo di prescrizione per i reati di corruzione. Sarà molto più semplice procedere alla confisca dei beni di chi ha rubato ed è condannato con sentenza passata in giudicato. E questo è quello che anticipavamo prima, appunto, con le misure che ha annunciato Renzi. Parliamo di Grecia e borse. Borse che chiudono in profondo rosso sotto la spinta del caso Grecia, col paese verso le elezioni presidenziali anticipate al 17 dicembre e la scelta del primo ministro Samaras di candidare l'ex commissario europeo Stavros Dimas alla presidenza. In questo modo la borsa di Atene è crollata a meno 12,78%, è ribasso, pensate, peggiore degli ultimi 27 anni. La scelta dell'esecutivo greco crea timore sui mercati. Facciamoci spiegare il perché di questa situazione da Vittorio De Rolde del Sole 24 Ore. Come sai fare tu, Vittorio, in modo sintetico ma molto chiaro? Ciao Vittorio. Ciao, buonasera. Effettivamente la notizia è stata abbastanza sorprendente, cioè il primo ministro greco Samaras ha cercato di giocare d'anticipo su questa elezione del Presidente della Repubblica. Un'elezione che, se non va in porto con i due terzi dei voti in Parlamento alla terza elezione, prevede la Costituzione greca che si debba andare al voto anticipato, e dato che la maggioranza del governo ha 155 voti, gliene mancano quindi molti ad arrivare a 180, è molto probabile che si andrà al voto anticipato. Questo ha mandato in fibrillazione i mercati mondiali, perché i sondaggi dicono che in vantaggio c'è il partito di sinistra radicale Syriza, guidato da Alexis Tsipras, che vuole appunto rinegoziare il cosiddetto memorandum, cioè il debito, i prestiti che i partiti, i crediti internazionali, la BCE, la UE, il Fondo Monetario hanno dato alla Grecia. Questo vuol dire che tra breve i greci potranno decidere se appunto mandare Tsipras come primo ministro e decidere a sua volta se rinegoziare il debito, cosa che per ora è stato sempre vietato dai trattati europei, e quindi creare un precedente molto interessante ma anche pericoloso se visto appunto dal punto di vista dei paesi nordici, oppure la Grecia potrebbe decidere di uscire dall'euro e qui aprire un altro vaso di Pandora. Già un bivio, insomma, siamo a un bivio in questo momento, Vittorio De Rolde. Esattamente, un bivio molto delicato, perché per la prima volta la Grecia, che ha solo il 2% del PIL dell'Eurozona, quindi è veramente un piccolo paese, pone però sempre un problema di fondo, cioè che tipo di unione europea vogliamo, un'unione fiscale dove quindi ci sia anche solidarietà tra i paesi a livello appunto di debito e quindi aprire agli eurobond, oppure ognuno deve fare per sé, ma allora ognuno ha anche diritto di uscire da questa unione, e questo quindi è un dilemma molto complesso. Direi di sì. Grazie Vittorio De Rolde, intanto in attesa di vedere che strada si prende in questo bivio così delicato. Nel frattempo si apprende che in Italia non ci sarà nessuna manovra aggiuntiva, come ha ribadito da Bruxelles il ministro dell'economia Padoan nell'ultimo Ecofin a presidenza italiana. Sentiamo. La crescita è fondamentale per l'Italia, visto soprattutto l'onere del debito che ha, e la via d'uscita dal debito è la crescita, non ci sono scorciatoie. E Renzi domani vedrà la Presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che oggi a Milano ha inaugurato l'anno accademico alla Bocconi, all'Università Bocconi, e che ha dichiarato Lagarde di apprezzare il Jobs Act. Punto per punto, il direttore del Fondo Monetario, Christine Lagarde, elenca come si combatte la disoccupazione giovanile a livello nazionale ed europeo. My first one would be the labor market reform. Al punto primo, mette la riforma del mercato del lavoro, promuovendo l'Italia e il suo Jobs Act, con il contratto unico, che combatte il dualismo tra gli insiders a tempo indeterminato e con forti protezioni, e gli outsiders precari non tutelati. Ma c'è un ma. Per il numero uno dell'FMI va ridotto anche il cuneo fiscale, pena la perdita di efficacia della riforma, soprattutto nella lotta alla disoccupazione giovanile, e insieme al punto 2 la riforma giudiziaria per processi ora lunghi il doppio della media OCSE, e al punto 3 la riforma del settore bancario per le PMI, deve esserci l'Europa. Infatti, perché l'Italia abbia successo deve essere accompagnata dall'Eurozona. The Eurozone in our view has to fire, che deve dare fuoco a tutte le sue cartucce, dice Christine Lagarde. Sul fronte della politica monetaria, dove bene ha fatto finora la BCE, ma anche della politica fiscale. Senza dimenticare, punto ultimo ma non meno importante, che a sostegno di tutte le riforme strutturali ci vuole quel certo grado di flessibilità nelle regole del patto di stabilità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo continuano a esserci troppi giovani disoccupati, gli italiani in fuga dal paese sono davvero tanti, come emerge dal rapporto dell'Istat, e non sono mai stati un numero così alto. Un'Italia sempre meno attraente, dalla quale gli italiani fuggono e gli stranieri arrivano sempre meno. È questa l'istantanea fotografata dall'Istat sulle migrazioni internazionali interne della popolazione residente, come spiega Enrico Tucci, relatore del rapporto. C'è in calo l'immigrazione generale, indipendentemente dalla cittadinanza, è in aumento l'emigrazione dall'Italia verso l'estero, anche qui indipendentemente dal fatto che si parli di cittadini italiani o cittadini stranieri. Nel 2013 sono stati 82.000 gli italiani a lasciare il paese, in crescita del 20% rispetto al 2012. Migrano soprattutto le persone tra i 20 e i 45 anni e per lo più laureati. La meta preferita è Londra, seguita da Berlino, Berna e poi Parigi. In calo invece gli arrivi di stranieri. Nel 2013 sono stati 307.000, 43.000 in meno rispetto all'anno precedente. E anche i cittadini stranieri lasciano sempre più l'Italia, 14% in un anno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'omicidio del piccolo Loris. L'ultima tappa al momento di questa vicenda così drammatica è il decreto di fermo per la mamma di Loris, Veronica Panarello, con l'accusa di omicidio. C'è anche l'aggravante della crudeltà. Raffaella Calandra, ciao. Ciao Roberta. Sì, i magistrati scrivono nel decreto, parlano di elevata efferatezza e di sorprendente cinismo a proposito del modo con cui la mamma di Loris, Veronica Panarello, avrebbe ucciso il figlio. Lo scrivono nel decreto appunto di fermo, ora però ci dovrà essere la convalida da parte di un GIP. I magistrati non sembrano avere dubbi, ritengono che gli indizi a carico della donna siano gravi, precisi e concordanti, e parlano soprattutto delle smentite palesi che le riprese delle telecamere farebbero rispetto alle dichiarazioni che la donna continua a ripetere. Ancora nell'interrogatorio di oggi la donna ha ripetuto di aver accompagnato a scuola quella mattina il figlio Loris, nonostante le abbiano mostrato un fotogramma di una telecamera che sembra inquadrare la sagoma di un bambino che torna a casa. I magistrati sono sicuri, dicono che oltre ogni ragionevole dubbio Loris quella mattina è tornato a casa e che per almeno 36 minuti è rimasto a casa senza che nessun altro di sconosciuto entrasse nel condominio. Ma per la mamma e per il suo difensore in quel video non è possibile riconoscere la sagoma di Loris. Ma non c'è soltanto questo a carico della donna, ci sono anche le riprese che inquadrano la sua polo nera avvicinarsi al vecchio mulino laddove è stato ritrovato il corpo del bambino e laddove oggi sono state trovate anche delle fascette da elettricista, quelle con cui, scrivono i magistrati nel decreto di firma, probabilmente ha ucciso il bambino. Veronica è stata portata nella carcere di Catania, dove è stata accolta anche dalle urla e dagli insulti dei detenuti, e questo è il trattamento del carcere rispetto alle donne accusate di aver ucciso i loro figli. Però vedremo se ci sarà la convalida da parte del GIP, ma sempre di più questo sembra un caso molto simile a quello di Cogne. Grazie Raffaella Calandra. Poi ci torneremo più tardi, adesso però andiamo sulle notizie dall'estero, dagli Stati Uniti. Un rapporto del Senato che scuote Washington, il rapporto della Commissione Intelligence del Senato americano, che ha indagato per 5 anni sui metodi utilizzati dalla CIA con i terroristi catturati dopo l'11 settembre. Si parla di torture, di violenze sessuali, e anche su questo torneremo poi più tardi, ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la cronaca italiana, 2 nuovi immancabili femminicidi. In un poche ore è stato trovato nel sottotetto, nelle Marche, della sua villetta a San Filippo sul Cesano, dove si era vicino Pesaro, dove si era nascosto, il marito di Rossella Iatesta, la 46enne di origine pugliesi, uccisa questa mattina con uno o più colpi alla testa. L'uomo, un piccolo imprenditore di Fondi vicino Latina, titolare di un'azienda che produce vetroresina, dopo averla uccisa ha ingerito della nafta, adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale, piantonato dai carabinieri. E sempre nelle Marche ci saranno 3 giorni di lutto cittadino a Numana. Li ha proclamati con un'ordinanza il sindaco Tombolini dopo il duplice omicidio-suicidio che ha distrutto un'intera famiglia. Un uomo di 38 anni, operaio, non accettava la separazione dall'ex moglie di 29 anni. Lei aveva avvisato la polizia riferendo che l'ex marito voleva entrare con la forza nell'abitazione, che temeva per la propria incolumità, ma lui è riuscito a entrare e ha ucciso lei e il figlioletto di 5 anni. Poi si è suicidato, i carabinieri sono arrivati troppo tardi. La Basilicata è in lutto per la morte di Mango, del cantante Mango, e oggi la famiglia è stata però incredibilmente colpita da un altro lutto. Giuseppe stava cantando Oro, il brano che 30 anni fa gli ha aperto le porte del successo, quando si è accasciato sul palco, stroncato da un arresto cardiaco. Giovanni è andato a trovarlo, a porgergli l'ultimo saluto. Forse un infarto anche per lui, poi la corsa, inutile, verso l'ospedale. Uno strano e doloroso destino è toccato a due fratelli Mango, che hanno lasciato le loro famiglie a poche ore e chilometri di distanza nella loro terra, alla Basilicata. Pino, 60 anni compiuti il 6 novembre, è morto ieri sera alla fine del suo concerto al Palais Ercole di Policoro, in provincia di Matera. Giovanni, muratore, di 15 anni più vecchio, ha avuto un malore stamattina nella camera ardente allestita nella villa del fratello a Lago Negro, loro paese natale. Una città rimasta nel silenzio che per domani, giorno dei funerali del cantante, ha proclamato il lutto cittadino. Tanti messaggi di cordoglio su Facebook e Twitter e un appello a tutti i cantanti vicini a Mango: organizzare un live di beneficenza per costruire scuole in Africa, un progetto molto caro all'artista lucano. Levia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere, mentre vedo un messaggio di un ascoltatrice o ascoltatore che manda un grande abbraccio a Mango e suo fratello, dice: una storia commovente, è davvero molto molto particolare questa. Sentiamo Dario Ricci invece sulla partita di Champions in cui è coinvolta la Juventus contro l'Atletico Madrid. Dario? Sì, sì, Roberta, ti vedo preparatissima. Allora, siamo al 32esimo chiaramente del primo tempo, ancora 0-0 a Torino tra Juventus e Atletico Madrid, ma un Atletico Madrid che, sebbene già qualificato, non è certo venuto a Torino a far solo presenza, tant'è che al settimo minuto, grande occasione per gli spagnoli con Koke, miracolo di Buffon che ripara così ad un errore difensivo di Bonucci. Juventus che fa fatica a distendersi, manca Marchisio sostituito da Pereira, mentre sulla sinistra gioca Evra, preferito a Paduin. Al 27esimo però una bella punizione di Andrea Pirlo dai 25 metri, finisce alta di poco, 0-0 a Torino, 1-0 invece ad Atene con l'Olympiacos in vantaggio sul Malmo. Risultati che, se dovessero confermarsi così, vedrebbero la Juventus qualificata come seconda nel gruppo A, ma davvero la storia di questa serata di Champions è ancora tutta da scrivere, Roberta. E allora, mentre tu scrivi, ci fermiamo per aggiornare chi viaggia. Voi potete invece continuare a scrivere i vostri messaggi, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sulle notizie naturalmente del giorno, oppure attraverso gli SMS al 349-238-6666. A momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E vedevo anche un messaggio di Anna che dice: cara Roberta, tanti femminicidi, ma quanti bambinicidi ci sono negli ultimi anni? È vero, soltanto naturalmente uno deve, per fortuna, insomma, bambini decisamente meno rispetto alle donne ogni 48 ore, il rapporto di Eures di due settimane fa, ogni 48 ore viene uccisa una donna. In più, quelli dei bambini fanno naturalmente più impressione, soprattutto quando è una madre a farlo, e di questo poi parleremo tra poco, mentre ormai i femminicidi sono diventati proprio una routine. Ma vi rielenco le notizie del giorno e poi andiamo proprio su questa. Su Mafia Capitale, ira di Renzi, corrotti pagheranno tutto fino all'ultimo centesimo, e poi annuncia delle misure nuove per la corruzione, una pena minima di 6 anni e un allungo della prescrizione. Trema l'Europa, crolla la borsa ad Atene, nubi sul futuro della Grecia, timori per le elezioni anticipate che ci saranno, e quindi Milano e le altre europee, borse europee in rosso. La madre di Loris in carcere, i PM dicono ha ucciso con cinismo, dicono che era violenta fin da bambina, la gente gli urla vergogna. Torture, il Senato americano accusa la CIA di brutalità e inganni. Obama dice: sono incompatibili con i nostri valori, dell'America non deve succedere mai più. Ricerca dell'Istat, mai così tanti italiani in fuga, anche meno immigrati vengono da noi in Italia. E poi in arrivo 1,5 miliardi per il superfarmaco contro l'epatite C. E la storia, sentivamo così particolare, muore anche il fratello di Mango a 2 giorni di distanza, forse un altro infarto durante la veglia funebre. E ora vi dicevo, parliamo allora delle ultime novità che un po' avevamo accennato già sull'omicidio del piccolo Loris a Santa Croce Camerina, vicino a Ragusa, in Sicilia. Veronica Panarello, la mamma di Loris Stival, fermata su disposizione della procura di Ragusa per l'omicidio del figlio di 8 anni, è arrivata nel carcere di Catania, nella struttura penitenziaria. Tra giovedì e venerdì il GIP del capoluogo Ibleo la sentirà nell'ambito di un interrogatorio di garanzia per decidere, come si diceva, per la convalida di questo fermo, di questo provvedimento restrittivo. La gente che le ha urlato assassina, assassina, e le viene contestata anche la crudeltà, l'aggravante della crudeltà e del legame di parentela, avrebbe ucciso il bambino strangolandolo con queste fascette elettriche di plastica di cui si parlava in questi giorni, e si sarebbe resa responsabile, dicono, dell'omicidio del proprio figlio con modalità di elevata efferatezza e sorprendente cinismo. Quindi è stato emesso questo decreto di fermo perché ritengono che ci siano gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Vi ricordo che il bambino è stato ritrovato cadavere il 29 novembre in un canale in Santa Croce Camerina. Gli inquirenti, insomma, si sono convinti che sarebbe stata lei a togliere la vita al piccolo con una fascetta da elettricista stretta intorno al collo, e poi avrebbero visto la sua macchina, da queste video registrato dalle telecamere, vicino a quella contrada del Mulino Vecchio, dove c'è questo canale dove poi è stato ritrovato il cadavere del bambino. Malgrado tutte queste contestazioni dei magistrati così incalzanti, la donna è rimasta ferma sulla sua versione dei fatti. Dice: io non l'ho ucciso, sono innocente, voglio che si trovi il colpevole. Allora coinvolgo Roberta Sacchi. Buonasera. Dottoressa Sacchi, grazie per l'invito. Grazie a lei, psicologa e criminologa e tra l'altro consulente tecnico forense in procedimenti civili e penali di presunto abuso sessuale sui minori, maltrattamento, violenza domestica, sindrome da alienazione parentale, valutazione della capacità genitoriale. Quindi proprio la competenza in pieno di un caso come questo. Sentiamo un attimo, dottoressa Sacchi, che cosa ha detto il legale di Veronica Panarello, l'avvocato Villardita. Formalmente sono stato per tutti questi giorni difensore della persona offesa, ma mediaticamente e sostanzialmente mi è sembrato di capire che assistevo un indagato. Ora mi auguro soltanto, così come è stata indagata mediaticamente 10 giorni prima del provvedimento formale, che non verrà condannata con sentenza definitiva mediaticamente prima del processo. Quindi questo è quello che dice il legale. C'è da dire, dottoressa Sacchi, prima di un suo commento su questa vicenda, che è stata ricostruita anche la storia di Veronica Panarello, che ha 29 anni, ha avuto il bambino Loris a 16 anni, ha avuto un rapporto conflittuale, estremamente conflittuale con la madre, che le aveva detto che era arrivata ad una gravidanza assolutamente indesiderata, che il padre di Veronica non è il suo vero padre, quello che l'ha cresciuta, ma un uomo di cui lei non sa bene di chi si tratti. La madre ha avuto 5 figli da 3 uomini diversi e Veronica pare abbia tentato il suicidio almeno una volta, sempre anche lei con queste fascette da elettricista, e poi ha avuto la gravidanza, appunto, il Loris a 16 anni, e probabilmente ha dovuto fare questo matrimonio obbligato con Davide, di cui si era innamorata da ragazzina, quello che è suo marito, che però per mesi è via col suo camion. Quindi ha parlato di una vita travagliata raccontando di sé Veronica. Lei che idea si è fatta di questo caso? Sì, insomma, cominciano ad emergere dei particolari rispetto alle condizioni psichiche di questa ragazza, perché poi di una giovanissima stiamo parlando, che non sono quelle di una persona estremamente serena. Anzi, la mamma dice era seguita da uno psicologo già dall'età di 7 anni. Potete immaginare che in una cittadina così poco centrale, e poi in Sicilia, e poi 26 anni fa, portare un bambino dallo psicologo a 7 anni significa che è un bambino che ha dei comportamenti talmente dirompenti e talmente fuori dalle righe da doversi costringere a fare intervenire un esperto. Capite che voi che evidentemente siamo di fronte ad una patologia che cominciava ad emergere in maniera significativa. Già dice da ragazzina, insomma, adesso appunto ha 26 anni Veronica Panarello, ma molti si chiedono: sarà un secondo caso Cogne, cioè in cui una donna rimuove, anche almeno così dice, secondo quello che dice, lei si continua a confermare innocente, non è crollata, nonostante possiamo immaginare ore e ore di interrogatorio di fronte a una cosa come questa, continua a urlare la sua innocenza. In realtà è un caso molto più drammatico di quello di Cogne. Io oggi insieme ai colleghi anche facevamo queste due riflessioni, perlomeno queste sono le mie riflessioni. La prima è l'età di questo bambino, cioè non è consuetudine che una mamma uccida un figlio a quell'età, generalmente sono bambini molto più piccoli. Ma è l'efferatezza, veramente la violenza con cui ha occultato questo cadavere, gettandolo sostanzialmente e sembra addirittura ancora lì in un da un'altezza di 2,5 metri. Passa anche un paio d'ore fra un'attività e l'altra. Peraltro la mancanza degli slip sul bambino fa pensare addirittura ad un'attività di depistaggio, quindi veramente un omicidio, un figlicidio di una violenza e di una efferatezza inusitata. Per quanto riguarda le sue condizioni psichiche, sicuramente verrà disposta una perizia psichiatrica. C'è un processo psichico che si chiama dissociazione, nel senso che alcuni atti che sono particolarmente duri da accettare per la coscienza vengono in qualche maniera rimossi e se ne ha un ricordo slavato oppure addirittura un ricordo. Non sappiamo se questo è il caso della Panarello, sicuramente è stato il caso della Franzoni, perché così i periti ci hanno detto. Ma secondo lei, nel caso della Franzoni, per esempio, si può immaginare, o almeno così da quanto ci hanno detto le cronache, probabilmente è stato quello che si definisce un raptus, ma magari una depressione accumulata per tanto tempo. Lei si era convinta, la signora Franzoni, che il bambino fosse malato e ha avuto questo scatto di rabbia così violenta. In questo caso invece sembra una cosa, almeno apparentemente, usiamo questo aggettivo, più lucida, più calcolata, è possibile? E quale potrebbe essere stato il movente, quindi, di una cosa così? Però c'è quella frase che andrà sicuramente riletta del papà di Loris, e che dice: questa volta l'ammazzo con le mani mie, come se effettivamente si conoscesse qualcosa che avveniva sul bambino. Ora tutti si è pensato all'estraneo, alla vendetta, al fuori, però è possibile che nascondesse quella frase dei comportamenti magari violenti di cui solo loro hanno conoscenza. Peraltro questa estrema vivacità che viene descritta sul bambino può far pensare che magari era soggetto a comportamenti non proprio materni da parte della mamma. Tra l'altro, si ricorda, dottoressa Sacchi, giorni fa con un giornalista di Ragusa News, col quale parlavo, aveva raccontato anche, e anche altri cronisti che erano sul posto, di possibili segni rilevati dagli investigatori di violenze sessuali precedenti del bambino. In questo caso forse è un'informazione così che è sfuggita senza molta verifica, o quale riscontro potrebbe avere una cosa del genere? I riscontri degli abusi sui minori sono difficilissimi, a meno che questi ovviamente non vengono perpetuati pochissime ore prima della rilevazione, e questo stiamo parlando dell'1% dei casi. E gli abusi vengono generalmente rivelati dai bambini, e quando vengono rivelati anche molto tempo dopo, mesi o anni dopo, per cui capite quanto è difficile capire se effettivamente ci sono stati o meno. Ho visto che gli inquirenti hanno sequestrato tutto il materiale che aveva prodotto il bambino. Vedremo se da lì emerge qualche cosa. Forse si può pensare invece a violenze tipo maltrattamenti, perché un gesto di questo genere può nascondere, può significare un'escalation magari di comportamenti violenti, meno ovviamente dirompenti di questo ultimo finale. Quindi in questo caso una madre che agisce così, che agirebbe così, usiamo ancora il condizionale, verso un figlio, e tra l'altro in modo così, come dicono gli inquirenti, freddo, cinico, calcolato, no? Addirittura riportare indietro il bambino da scuola, far finta che sia andato a scuola, poi erano passati circa una mezz'ora, insomma, da quando il bambino è tornato a casa ed è rimasto a casa. E che cosa può essere scattato nella mente? Frustrazioni sue di infanzia, di adolescenza, maltrattamenti reiterati? A mio avviso si sta profilando una psicosi per questa donna, se tutto torna così come le notizie di stampa ce lo riportano. Credo che ci sia veramente una follia lucida. Noi quando pensiamo al pazzo, al matto, pensiamo sempre a quello che adotta dei comportamenti dalle righe, a quello che si dice Napoleone, o a quello che, appunto, come diciamo noi, dà di matto. In realtà esiste una follia lucida, che è una follia calcolata, ed è una follia psicotica, appunto. Magari covava una depressione da tantissimo, tantissimo tempo, però, ripeto, questi comportamenti aggressivi che denuncia la mamma da quando la bambina aveva 7 anni, veramente mi riportano ad una malattia mentale di lungo corso. Va bene, per il momento ci fermiamo qui, vediamo come proseguono le indagini e se sarà convalidato il fermo. La ringrazio, dottoressa Roberta Sacchi, grazie intanto. Grazie a voi, buonanotte. Buonanotte. Ci prendiamo questa pausa, anche un po' di respiro. Voi potete continuare a scrivere i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Note al 349-238-6666. Dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e come notizia adesso alzerei Marino che sta parlando, il sindaco di Roma. Pericolo. Nelle intercettazioni si dice chiudiamo tutti i contratti perché se tra due settimane, questo era nel periodo delle elezioni, vince Marino, qua gli affari sono finiti. Ecco. E fino a poche settimane fa altre intercettazioni dicono questi se hanno le palle, parlava di alcuni che non si sa chi, dovrebbero farlo cadere Marino, perché se non lo fanno cadere qui però, noi non riusciamo sindaco, più a fare nessun affare. Però sta nelle parlando intercettazioni, di mafia capitale, dell'organizzazione criminale, politica, imprenditoriale, che a quanto si dice l'intercettazione, a quanto sta dicendo Ignazio Marino, lo volevano anche far fuori, nel senso far cadere in qualche modo perché non intralciasse i loro affari. Vediamo se si sente ancora qualche sua affermazione. L'assessore della casa Ozimo per primo. Giannini, il conduttore. Bene, direi che allora a questo punto possiamo ritornare sulle notizie in sintesi della giornata. E cominciamo dalla giustizia, linea dura di Renzi sulla corruzione, dice corrotti pagheranno nuove misure nel prossimo Consiglio dei Ministri, sarà per esempio allungata la prescrizione. L'omicidio di Loris, la madre trasferita in carcere, nuovamente interrogata per 5 ore ma nega tutto. Dalla Grecia verso il voto anticipato, la borsa di Atene a meno 12,78 affossa l'Europa. Stati Uniti pubblicato il dossier che svela le torture della CIA, tra poco ne parleremo. I femminicidi, 2 nelle Marche, ci sono state nel corso di poche ore, una donna di 46 anni e poi una donna di 29 insieme al suo bambino di 5 anni, tutte e due uccise da marito e ex marito. E poi il rapporto OCSE sulle disuguaglianze, in Italia i più poveri guadagnano un decimo dei più ricchi. Muore anche il fratello di Mango, forse un altro infarto durante la veglia funebre. Per la Champions League la Juventus e l'Atletico Madrid per il momento viaggiano 0-0. Sentiamo ancora qualche passaggio di Marino. È stato ascoltato dalla procura come persona informata sui fatti e non c'entra nulla con questo malaffare. Era il malaffare che tentava, come immagino si faccia, io non sono un esperto di come la criminalità organizzata si muove per cercare di circuire i propri interlocutori, ma certamente cercavano interlocutori e qui hanno trovato le porte sbarrate, anche perché io, come tutti sanno, non vado nei salotti, non vado alle cene, non vado nei ristoranti e se si deve trattare un progetto importante per il comune do con i miei collaboratori un appuntamento alle 9 del mattino in ufficio. Però, in Campidoglio. Ecco, un'altra cosa sindaco, lei aveva detto che non conosce Buzzi e non l'aveva mai incontrato. C'è braccio una foto destro di Massimo Carminati che è il capo di tutta questa organizzazione criminale, questo Buzzi. Chi era Buzzi? È stato ritratto in una foto insieme padre padrone Marino di questa cooperativa che aveva le mani in pasta dappertutto. Eccole qua. La foto o la serie di foto che mi ritrae insieme a questo amministratore che, come è stato detto prima, gestiva una serie di cooperative che avevano un obiettivo sociale. Pensi che quelle cooperative erano state fondate quando c'era un grande sindaco che si chiamava Ugo Vetere nel 1984. Ecco, ma lei Buzzi quindi non lo conosceva, insomma. Proprio come... No, io lo incontrai durante la campagna elettorale perché andai nella cooperativa e devo dire sinceramente che ancora oggi ritengo che cooperative di quel tipo che mirano a reinserire socialmente una persona che ha sbagliato nella vita utili, e che uscendo utili dal carcere non trova un lavoro e gli viene offerto. Era il caso di Buzzi sono questo. Utilissime, perché sennò quelle persone non trovando la possibilità di essere inserite ad esempio in un lavoro di giardinaggio, di cura del verde, finiscono per tornare a delinquere. Senta, sindaco, e io un'altra... così l'ho conosciuto. Bene, e direi di fermarci qui per il momento perché abbiamo un'altra delle notizie di oggi importanti, questo rapporto della Commissione di Intelligence del Senato americano, questa commissione del Senato americano che ha indagato per 5 anni sui metodi utilizzati dalla CIA, dai servizi segreti statunitensi, con i terroristi catturati dopo l'11 settembre. E l'accusa di questa commissione è di essere colpevole la CIA di brutalità non ancora denunciate. Il presidente Obama spera che sia l'ultima volta che si debba parlare di tortura, ha detto va contro i valori dell'America, abbiamo sempre difeso la democrazia e i diritti degli esseri umani. E già nel 2009 lui, quando fu eletto, mise al bando tecniche di tortura come il cosiddetto waterboarding. Ma ne parliamo con Marco Valsania, corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Buonasera. Ha fatto tremare, si dice, Washington, questo rapporto della Commissione del Senato americano. Sì, sicuramente è un rapporto inquietante, oltre il rapporto complessivamente è di oltre 6.000 pagine e la Commissione Intelligence del Senato ne ha rese note circa 526 pagine per esattezza, ma sufficienti a dare il primo vero grande quadro delle cosiddette tecniche di enhanced interrogation, come venivano chiamate sotto l'amministrazione Bush, cioè di interrogatori potenziati, rafforzati e che poi gran parte degli esperti poi semplicemente chiamano torture, un quadro di queste torture e di una rete condotte in una rete di prigioni segrete della CIA sparse per il mondo. Ecco, dal rapporto emerge che le tecniche utilizzate erano ancora più dure, ancora più brutali di quanto ammesso dalla CIA. Oltre al waterboarding anche altre tecniche di alimentazione forzata di prigionieri, privazioni del sonno per oltre una settimana e altre appunto tecniche brutali, ecco, venivano utilizzate su prigionieri in maniera molto più comune di quanto ammesso. La Cina finora aveva ammesso che le aveva utilizzate in 3 casi, invece sono molto, molto di più i detenuti sottoposti a queste tecniche di tortura e anche il numero complessivo dei prigionieri, dei sospetti terroristi detenuti in queste prigioni segrete era superiore, almeno 119, la CIA ne aveva ammessi soltanto 98, di questi 119 il rapporto del Senato dice almeno 26 sono stati detenuti in modo irregolare, cioè non erano colpevoli, non avevano. Marco Valsavia, penso che una delle cose più terribili di questo rapporto, di quello che è stato fatto, al di là che questa commissione dica che queste tecniche rafforzate o torture non siano state efficaci in realtà a fini investigativi, poi il capo della CIA, John Brennan, in realtà si è difeso dicendo sì, ci sono stati degli errori, ma abbiamo evitato altri attacchi terroristici. Però, come dicevi tu, tra le vittime che avrebbero subito torture da parte della CIA, una su 5 nel rapporto risulta che era tenuta in stato di detenzione per sbaglio, per un errore di identità, una su 5, quindi immaginiamo, insomma, esatto, molto grave. Non pochi, il che appunto fa emergere quanto sia grave la ferita aperta nel paese e non solo negli Stati Uniti da questo tipo di dall'uso delle torture, un uso che è risultato, secondo le accuse del rapporto, indiscriminato, mal gestito, anche mal supervisionato e coperto da insabbiamenti e quindi diciamo una vera e propria minaccia anche alla difesa dei valori, qualunque valore democratico e di società civile. Ecco, il tono del rapporto è sicuramente molto duro e manterrà aperto il dibattito ancora a lungo, nonostante, come ricordavi tu, le difese d'ufficio della CIA che tuttora anche l'attuale direttore, come dicevi appunto, rifiuta di ammettere, di chiamare tortura queste tecniche e continua a difenderne l'efficacia nonostante il rapporto appunto sostenga dica esattamente il contrario, insomma. Esatto, che non hanno ottenuto informazioni di intelligence valide attraverso le torture. Grazie Marco Valsania, grazie da New York. Grazie. Ciao Marco. Aggiorniamo invece chi sta viaggiando per l'Italia tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie principali oggi sono quelle che riguardano la reazione di Renzi ai fatti gravissimi di corruzione a Roma. Dice: i corrotti pagheranno tutto sino all'ultimo centesimo per la corruzione. Prevede delle modifiche nel Consiglio dei Ministri prossimo, una pena minima di 6 anni per i corrotti e l'allungo della prescrizione. Poi con la Borsa di Atene che va giù, meno 12,8%, trema l'Europa, nubi sul futuro della Grecia, timori per le elezioni anticipate che ci saranno. E quindi tutte tutte le borse europee, compresa Milano, sono affossate. La madre di Loris in carcere, i PM dicono ha ucciso con cinismo, e raccontano, dai racconti della madre di Veronica, violenta sin da bambina, la gente le urla vergogna. Abbiamo parlato adesso del rapporto del Senato americano sulle torture negli Stati Uniti e poi la notizia del fratello di Mango, che è morto a sua volta a 2 giorni di distanza durante la veglia, forse anche lui per infarto. Adesso l'Europa. Europa 24 notte. E parliamo questa volta dell'Europa del lusso, le grandi marche dell'abbigliamento, della moda, dei profumi, ma anche quelle degli automobili di lusso, dell'arredamento, del design, sono solo alcuni dei prodotti tipici della cultura europea che vengono riconosciuti a livello mondiale. Dietro le vetrine delle vie più chic del pianeta esiste un settore lusso che viene ormai riconosciuto come un patrimonio culturale creativo e vale il 4% del PIL continentale. Ne abbiamo parlato con Armando Branchini, vicepresidente di Alta Gamma ed esperto di un settore che assicura in Europa oltre 2 milioni di posti di lavoro. In Europa vale il 70% dei consumi mondiali, per cui possiamo dire che è veramente quello del lusso un patrimonio europeo, e teniamo conto che del 30% che manca, un 20% ricco è comunque di pertinenza degli Stati Uniti d'America. Sostanzialmente perciò è un settore tipico delle economie mature che sanno combinare manualità, tecnologia e aspetti culturali. Rappresenta complessivamente il 4% del PIL europeo, ma è un dato anche in crescita. Non c'è dubbio, infatti nel 2010 rappresentava il 3% del PIL europeo e invece nel 2013 è già aumentato del 33% al 4%. Nel 2013 i consumi mondiali di prodotti di lusso, dalle automobili ai beni di lusso per la casa, alla ospitalità, ai vini e liquori, al cibo, al design, all'arredamento, agli yacht, sono stati di 792 miliardi di euro. Perché questa indagine? Rivendichiamo attenzione soprattutto su 3 aspetti, dopo aver permesso che non chiediamo né trattamenti particolari né tantomeno risorse economiche. Questo è un settore che appunto fa parte delle industrie culturali e creative, con riconoscimento delle istituzioni europee del fine settembre 2012, perciò la innovazione è fondamentale, l'innovazione va protetta, la proprietà intellettuale e industriale devono essere protette contro ogni tipo di falsificazione, sia quella servile che si vede sulle strade, sia quella molto più sofisticata che si vede in altri luoghi, ad esempio su internet, ma non solo. Il secondo aspetto è che abbiamo una necessità di una distribuzione selettiva, di poter scegliere i punti di vendita dove possiamo vendere. Abbiamo bisogno che ci siano le stesse regole del gioco sia per i distributori online come le stesse che valgono per i distributori nei negozi tradizionali, e infine abbiamo bisogno che in qualche modo le barriere tarifarie e non tarifarie nel mondo siano ridotte. C'era un impegno di un G20 che si è tenuto negli Stati Uniti nel 2011 a ridurre tra paesi industrializzati le barriere tecniche, le barriere non tarifarie, di fatto da loro sono credo almeno sestuplicate. E infine tenendo conto che molte produzioni delle filiere producono non soltanto per le aziende italiane, le marche italiane, ma anche per le marche di altri paesi europei o anche per quelle statunitensi e giapponesi, da uno studio Bocconi ci dà per il 2010 490.000 addetti per le industrie del lusso in Italia, di cui 180.000 diretti e gli altri indiretti. Noi riteniamo che in Italia di 10 o 20.000 unità tra il 2010 e il 2013 questa occupazione sia cresciuta, perciò siamo sopra i 500.000 addetti in Italia. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Invece concentriamoci sul rapporto dell'OCSE sulle disuguaglianze in Italia, sul loro impatto sulla crescita economica. Per ogni euro che va ai più poveri ne vanno 10 ai più ricchi. In Italia i più poveri guadagnano praticamente un decimo dei più ricchi e quindi la forbice tra chi ha più e chi ha meno non è mai stata così ampia come negli ultimi, non è mai stata così ampia negli ultimi 30 anni, perché questo polarizzarsi, questo divario tra due estremi è cresciuto moltissimo durante la crisi. Allora coinvolgo il professor Stefano Zamagni. Buonasera, professore. Professore? Sì, sì, pronto, buonasera, sento bene, voi sentite? Sento benissimo, professor Zamagni, economista dell'Università degli Studi di Bologna, al quale chiedo, questi dati significano quindi il fallimento dell'idea di redistribuzione della ricchezza che si va ripetendo da tanto tempo, ma a quanto pare non è riuscito? Dunque, questi dati non giungono inattesi, come gli studi più recenti di Piketty, di Milanovic, Angus Deaton e tanti altri hanno messo in evidenza, è da tre secoli che l'indicatore che si chiama coefficiente di Gini, che misura la diseguaglianza, è andato aumentando. Quindi non c'entra di per sé la crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2008. È vero però che nell'ultimo trentennio l'aumento, l'accelerazione delle diseguaglianze è cresciuto. Perché? Sappiamo le ragioni, cioè la diagnosi ormai è chiara e nota a tutti, più difficile è trovare la terapia. La diagnosi è, primo, che la terza rivoluzione industriale, quella delle nuove tecnologie, sta sistematicamente sostituendo macchine robotizzate e automazione al lavoro. E la Foxconn, che è un'impresa cinese che lavora per la Apple, eccetera, ha annunciato nei giorni scorsi che ha già provveduto ad ordinare 1 milione di robot umanoidi per sostituire altrettanti lavoratori, questo è solo un esempio. Seconda ragione è dovuta al fatto che le nostre economie di mercato non garantiscono quel principio di democrazia economica che dovrebbe invece essere garantito, cioè esiste sul mercato un solo tipo di impresa, quella che noi chiamiamo tecnicamente impresa di tipo capitalistico. È ovvio che l'impresa di tipo capitalistico, chi conosce il suo funzionamento endogeno, tende ad aumentare le diseguaglianze. Perché? Perché evidentemente ha bisogno di competere su mercati globali e quindi tende a delocalizzare e così facendo, trasferendo altrove, nei luoghi dove il costo del lavoro è più basso, determina, in questo caso in Italia, una situazione di disagio non indifferente. Dobbiamo muovere allora verso un mercato pluralista. Accanto a questo tipo di imprese dobbiamo fare spazio, eliminando tutti i lacci e lacciuoli che finora hanno fatto, imprese che sono quelle sociali, le imprese sociali. Non si capisce perché in tutti gli altri paesi più avanzati del mondo le imprese sociali avanzino, da noi invece non riescono ad andare. Infine, occorre introdurre sistemi di tassazione, non tanto la tassa proposta da Piketty, che a mio modo di vedere non potrebbe funzionare, ma quella che si chiama una assicurazione sulla diseguaglianza, che vuol dire il governo o il soggetto politico fissa un target ammissibile di diseguaglianza, misurato col coefficiente di Gini. Quando una categoria di persone, un gruppo di persone va al di sopra di quella soglia, scatta in maniera automatica una tassa sulle ricchezze accumulate. Questa regola, che viene fissata ex ante, cioè prima ancora che uno sappia se riuscirà nel tempo a superare la soglia, è accettata perché è equa, riguarda tutti e quindi è quello un modo per realizzare quella redistribuzione, che non è neanche solo una vera e propria redistribuzione, è semplicemente dire la diseguaglianza quando supera una certa soglia diventa un pericolo sia per la pace interna sia per la democrazia e anche per la crescita economica. Professor Zamagni, ci dobbiamo salutare, è stato molto chiaro con i punti che si dovrebbero adottare e naturalmente si spera sempre che le orecchie non siano sorde. Noi ci sentiamo tra poco, grazie professor Zamagni. Effetto notte, le notizie in 60 minuti.